vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 7 gennaio, il sole in regione è sorto alle 7.49 e tramonterà alle 16.38. Giovedì c'è luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli, i titoli. La canapa industriale, uno studio di ERSA e Università di Udine per aumentare la produttività di semi a ettaro per fare olio e semilavorati. La Ioibe Possignarie, il giovedì dopo i fuochi epifanici, le leggende della Carnia tra spiriti del bosco e Charsons propiziatori. Verità e bugie dei grani antichi, sempre più presenti sugli scaffali del supermercato, dal farro al frumento duro passando per il Camut, oggi marchio registrato. Vini passiti, antichi, preziosi, a lungo dimenticati, oggi riscoperti dai consumatori, le tecniche per ottenerli, da quelle naturali a quelle forzate. I cibi lattofermentati fanno parte della nostra cultura gastronomica, basti pensare alla brovada, i consigli per provare a casa la fermentazione delle verdure. In vivaio sono in fiore le prime miosotis, ovvero i non ti scordar di me, come coltivare in terra o in vaso queste piantine che raccontano romanticismo e fedeltà. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. Capita spesso durante le escursioni in campagna di imbattersi in appezzamenti dove è presente una pianta dalle fattezze inusuali. Si tratta della canapa, che genera sempre qualche sospetto. Ne parleremo con Costantino Cattivello, tecnico dell'ERSA, che assieme allo staff del professor Baldini dell'Università di Udine si è occupato di questa specie negli scorsi anni e continua a farlo. Chiariamo subito di che canapa si tratta. Si parla della cosiddetta canapa industriale, che è coltivata per la produzione di seme da cui si estrae l'olio, che ha impieghi sia alimentari sia medici e cosmetici. E aspetto importante, che ha un valore di THC, che è il principio attivo stupefacente, non superiore allo 0,3%. E che risultati ha prodotto questa vostra ricerca dal punto di vista agronomico? Si sono ottenute diverse indicazioni utili, che è impossibile enumerarle nel ridotto tempo a disposizione, anche perché la ricerca è durata 3 anni. Uno degli aspetti più interessanti emersi è il fatto che la produzione di seme migliora nettamente allorché le semine vengono ritardate a fine giugno. Questo ritardo fa sì che la fase di post-fioritura avvenga quando le temperature non sono molto elevate. Inoltre, questa semina ritardata permette di fare un secondo raccolto e di avere una taglia della pianta più ridotta, che rende possibile la raccolta del seme anche con le comuni mietitrebbie. Che varietà si impiegano? A differenza di un tempo, quando la canapa era selezionata solo per l'ottenimento di fibra, le varietà di canapa industriale moderne, adatte quindi alla produzione di seme, sono tutte di costituzione estera. Tra le più diffuse ricordiamo la Zenith, la Futura, la Fedora e la Compolti, ad esempio. Quindi l'olio è il prodotto più importante e, come si può immaginare, viene pagato in base alla qualità. Come si può avere la migliore qualità? La qualità dell'olio è influenzata dal peso ettolitrico del seme, quindi il grado di riempimento quindi del seme. Questo peso ettolitrico deve superare sempre i 400 grammi per litro e dipende anche da una corretta gestione della fase post raccolta, in particolare un adeguato essiccamento e conservazione del seme prima della sua lavorazione. Qual è la produzione minima di seme per avere un bilancio positivo della coltivazione? In una conduzione convenzionale la produzione di seme deve essere pari o superiore a 1 tonnellata ad ettaro, traguardo piuttosto impegnativo e non scontato. La soluzione economicamente più conveniente sembra quella di puntare sui prodotti di prima trasformazione, a partire dal seme, come olio e farina a destinazione alimentare, ottenuti mediante spremitura meccanica dei semi a freddo, effettuata direttamente in azienda o conto terzi. In questo caso, infatti, la produzione del seme per un primo utile di gestione si colloca attorno alle 0,4 tonnellate ettaro. E se la produzione è biologica? Se la coltivazione è condotta in regime biologico, è sufficiente anche una produzione dimezzata rispetto alla tonnellata per avere una certa redditività, grazie ai prezzi più elevati che spunta l'olio bio sui mercati. In questa puntata Angelo Floramo ci porta in Carnia a scoprire le tradizioni del dopo Epifania tra ricette auspicio di prosperità e le piccole misteriose presenze dei boschi della montagna friulana. A fuochi spenti, celebrato il rito ancestrale dell'Epifania, il tempo del prodigio, stando alle testimonianze, non si era ancora del tutto consumato per le genti della montagna friulana, dove ancora oggi resistono, e per fortuna sono numerosi, presidi di civiltà capaci di affondare fin dentro alle pieghe più profonde del tempo quello mitico e sorprendente delle origini. Così in Carnia, nel primo giovedì che seguiva i fuochi epifanici, giorno conosciuto come la Ioibe Possignarie, con ogni evidenza da post ignem, e cioè dopo il fuoco per l'appunto, era tradizione che le donne di casa tirassero la pasta per preparare i gustosissimi chiarsons, il cibo ricco e goloso della festa, carico di significati simbolici, a cominciare proprio da quella mezzaluna, capace di evocare la fecondità del grembo femminile, infarcito secondo i dettami prescritti dalla tradizione che, inevitabilmente, varia di comunità in comunità. Tanto più l'abilità delle massaie consentiva loro di tirare, tanti più mesi di abbondanza avrebbero benedetto la famiglia, in virtù di questo rito che, con ogni evidenza, non era solamente culinario, ma anche e soprattutto fortemente propiziatorio. Un'anziana testimone ebbe modo di ricordare che un giorno, nel borgo di Misincinis, una famiglia era riuscita a catturare un guriut, l'essere fatato e prodigioso che spesso faceva tana nei boschi, molto dispettoso con gli umani e irriverente nei confronti delle loro cose. E mentre la padrona di casa tirava la pasta, facendola scendere dal solaio attraverso il pertugio connesso con il focolare, spazio a sua volta fortemente simbolico, appartenente agli spiriti dei morti e agli antenati, venne apostrofata proprio da questa piccola creatura tenuta prigioniera sotto la rete di un setaccio, un tamés, ovvero l'attrezzo da cucina utilizzato per disgrossare la farina, ma spesso chiamato in causa perfino dagli inquisitori come strumento magico cui si ricorreva per interrogare gli spiriti circa gli eventi che sarebbero accaduti e che ancora restavano ignoti, nascosti dentro il grembo del tempo. Le parole del guriut appaiono senza senso. In realtà celano verità inconoscibili. Alla fine la donna lo libera, lasciando che abbandoni la casa, restituendo così lo spazio degli uomini ai giorni della vita ordinaria, a festa conclusa. Sacro e profano, magia e quotidianità, cibo e divinazione, in un intreccio destinato ad essere consumato a tavola. Quando le leggende rimbalzano a fine pasto e la memoria può farsi leggenda. Per la rubrica delle colture, oggi il professor Raffaele Testolini inizia una serie di contributi dedicati ai grani antichi. I grani antichi spopolano sugli scaffali della grande distribuzione e dei negozietti di prodotti bio e sono ricercati dai consumatori come i cereali che fanno bene alla salute. L'argomento è complesso e allora vediamo in qualche puntata cosa c'è di vero e cosa invece è frutto di claims pubblicitari di ditte interessate più alla vendita di questi prodotti che alla nostra salute. Cominciamo spiegando cosa sono questi grani antichi. Sono varietà di grano tenero e duro coltivate prima della metà del secolo scorso, quando i genetisti, mediante incroci controllati, riuscirono a ridurre la taglia dei frumenti da 1,5 metri di altezza e oltre fino a 70 centimetri. Le nuove varietà a taglia bassa potevano essere coltivate anche nei terreni fertili di pianura, evitando l'allettamento delle piante che causava forti perdite alla raccolta. A queste vecchie varietà, Senatore Cappelli, Gentilo Rosso, Ardito, San Pastore ed altre, vanno aggiunti i farri e altre specie di frumenti durri. Il piccolo farro è il primo cereale coltivato dall'uomo nella mezzaluna fertile circa 10-12 mila anni fa. È un cereale che produce poco, ha semi vestiti che devono essere decorticati ed ha un elevato contenuto in proteine, fino al 20%. Il farro è il cereale coltivato dai romani da cui è derivato il frumento duro, utilizzato al giorno d'oggi prevalentemente per la produzione di pasta, ma anche per la produzione di pane in alcune aree del centro-sud Italia. Abbiamo infine altre specie minori di frumento duro, tra cui il Khorasan, il frumento degli antichi egiziani e dei persiani, noto anche con il marchio registrato Kamut. Camut qualifica un grano Khorasan coltivato secondo un disciplinare di agricoltura biologica. L'americana Camut, avendo registrato il marchio, impedisce in Europa la coltivazione e la vendita con questo nome del frumento Khorasan. Poco male se la gente impara che Khorasan e Camut sono la stessa varietà. Abbiamo detto che questi grani antichi producono poco, circa la metà dei frumenti moderni. Se dovessimo tornare in tutto il mondo alla coltivazione dei grani antichi, dovremmo raddoppiare le superfici a frumento. Dovremmo cioè aumentare la superficie coltivata di un'area grande come la Libia o l'Iran. Allora, questi grani antichi devono avere delle caratteristiche di qualità per aver conquistato il cuore dei consumatori. Lo vedremo nella prossima puntata. Per la rubrica dei sommelier, prima puntata oggi con Vladimiro Tulisso sui vini passiti. Cosa sono? Perché li stiamo dimenticando? C'è una tipologia di vino a lungo trascurata dai consumatori e ora per fortuna con alcuni cenni positivi di crescita sul mercato. Sono i vini da uve passite, prodotti antichissimi con tecniche che si sono sviluppate assieme allo sviluppo della civiltà umana. La conservazione del cibo e delle bevande ha rappresentato per millenni un problema vitale e quando si è compreso che eliminando l'acqua si riuscivano a rallentare alcuni processi di decomposizione, i vini dolci sono diventati un prodotto ricercato, a iniziare dalle classi abbienti che potevano permettersi il costo. Testimonianze di vini dolci sono presenti in tutte le regioni enologiche del nostro paese, dove tuttavia cambiano le tecniche di appassimento, spesso legate alle caratteristiche climatiche del luogo. Se al sud le uve vengono fatte concentrare esponendole al sole, ancora in pianta o su grattugi, nelle regioni più a nord i vignaioli si affidano più frequentemente all'azione disidratante del vento, esponendo i grappoli, una volta raccolti, all'aria. Volendo semplificare, potremmo riunire la tecnica in tre categorie: l'appassimento in pianta, cioè con i grappoli ancora sulla vite, fuori pianta, con i grappoli già vendemmiati, o quello meno poetico dell'appassimento forzato. Se l'uva resta attaccata alla vite e da questa continua a ricevere l'alimentazione, si parla di surmaturazione, che garantirà una maggiore concentrazione di zuccheri. Lontano dalla vite, invece, l'uva dovrà perdere l'acqua grazie all'azione disidratante dell'esposizione al sole o al vento. In ogni caso, servirà molto tempo e sarà necessario pensare a tecniche per coccolare i grappoli anche per diversi mesi prima di arrivare alla loro spremitura. Avremo così letti di paglia, graticci di canne da palude, cassette di legno o plastica. A volte i grappoli verranno legati l'uno all'altro a formare una treccia, come si fa ad esempio con le pannocchie di mais. Se il vignaiolo decide di rinunciare alla tradizione, e non accade raramente, rimane la tecnica dell'appassimento forzato. L'uva, dopo la raccolta, viene posta in camere a temperatura controllata, intorno ai 30 gradi, con un'umidità tra il 50 e 60% utile a ridurre i rischi di marciume. Si fa più in fretta, costa meno, ma si tradiscono in un certo senso storia e cicli naturali. Come preparare i crauti in casa? Ce lo spiega Michela Urbano in questa breve guida alla fermentazione lattica domestica. I cibi lattofermentati fanno parte della nostra storia gastronomica. Pensiamo alla brovada, il pesticci, i crauti. Di grande attualità sui social, le verdure lattofermentate stanno riscuotendo un grande interesse anche nella produzione ad ambito familiare. Per ottenere una fermentazione spontanea è innanzitutto necessario creare un ambiente selettivo favorevole solo per i microorganismi utili. Questo tipo di conservazione è realizzato senza cottura, dunque sarà fondamentale un'igiene accurata di mani, oggetti e superfici. Procuratevi della materia prima freschissima, di ottima qualità e senza trattamenti. Il cloruro di sodio, il sale, ha un ruolo fondamentale nella fermentazione lattica. Sceglietelo integrale e non addizionato di iodio. Non utilizzate l'acqua con cloro, potrebbe compromettere la salute dei batteri preposti alla fermentazione. Assicuratevi che la frutta o verdura siano completamente immerse nella salamoia, solamente così si creerà un ambiente anaerobico sano. Dimenticatevi in questo ambito la pastorizzazione. Assicuratevi però di chiudere ermeticamente il barattolo. Soltanto un ambiente anaerobico assicura una corretta fermentazione. Potrebbe essere necessario fare sfiatare il gas in eccesso sollevando per pochi secondi il tappo. Dopo aver avviato la fermentazione, riponete i vasi in frigorifero. 7-8 gradi sono l'ideale per completare il processo fermentativo. I prodotti fermentati sono un prodotto vivo che continua a fermentare. Conservateli sempre in frigorifero per allentare il processo e scongiurare la proliferazione di muffe e batteri nocivi. Infine ricordate che il gusto dei prodotti lattofermentati è differente da quelli conservati sotto aceto, più complesso, più rotondo, più delicato. Se avete dubbi e perplessità, non consumatelo però, il buon senso deve avere sempre la priorità. La ricetta dei crauti lattofermentati. Pulite e lavate un cavolo cappuccio, affettatelo sottilmente e pesatelo. Calcolate il 2% di sale marino integrale non iodato. Versatelo sul cavolo tagliato e massaggiate accuratamente. Lasciate riposare fin tanto che produrrà la sua acqua. Aggiungete piacere del cumino. Invasate premendo bene per eliminare tutta l'aria. Assicuratevi che il liquido copra bene la verdura. Posizionate un prestino e tappate. Sfiatate al bisogno nei giorni successivi. Lasciate macerare 7 giorni a temperatura ambiente, poi fate fermentare 3 settimane in frigorifero prima di utilizzare. Con i suoi piccoli fiori è simbolo di fedeltà e amore duraturo. Alessandro Squizzato ci dice tutto sul non ti scordar di me. Lavorando all'interno delle serre di coltivazione in questo periodo dell'anno, tra un controllo di irrigazione delle primulette che sono quasi pronte e un'osservazione delle fasi di crescita delle dipladenie, mi capita già di scorgere le prime miosotis in fiore. Il nome comune di questa pianta è Non ti scordar di me e sicuramente suona familiare a molti di voi. Si tratta di un genere di piante perenne o biennale, la cui altezza arriva al massimo 20 cm, appartenente alla famiglia delle borraginacee e comprende circa 50 specie. È diffuso in Europa, Africa, America e Oceania. Per le cultivar coltivate nelle serre, la fioritura va da gennaio-febbraio a giugno, mentre per le varietà selvatiche, crescendo per lo più in montagna, vanno da aprile fino a settembre. Le infiorescenze, azzurre, rosa o bianche, tutte con il cuore giallo, sono composte da piccoli fiori con 5 petali. Il frutto, invece, è una bacca da cui fuoriescono i semi che possiamo usare per moltiplicare le nostre piantine. Il termine miosotis deriva dal greco e significa orecchie di topo, per via delle sue forme. Foglie che sono sottili, allungate, appuntite e leggermente pelosette. Si può coltivare in vaso con del terriccio universale di buona qualità oppure a terra, perfetta ad esempio in un giardino roccioso o come bordura. L'irrigazione andrà fatta a pianta asciutta, limitando i ristagni per evitare marciumi. Se allevato in vaso, quindi, preferisce l'apporto idrico dal sottovaso, che andrete a svuotare dopo una decina di minuti. Un concime per piante da fiore, ricco in azoto e potassio, gli garantirà un buon sviluppo di foglie e fiori. È opportuno rimuovere fusti o foglie secche o marce per evitare la propagazione di malattie crittogamiche. L'esposizione ideale è la mezz'ombra. Il suo nome, a seconda della zona, viene fatto risalire a diversi racconti popolari che parlano in tutti i casi di romanticismo, fedeltà e di amore eterno. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli in Friuli, Venezia Giulia. Concludiamo oggi la comparazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari del 2023. Per quanto riguarda i mercati di alcuni prodotti agricoli, ci sono stati discreti appagamenti tra i prezzi del 2022 e quelli del 2023. Il settore ortofrutticolo, in particolare quello degli ortaggi, nel 2023, per le condizioni meteorologiche complicate dalla variabilità atmosferica e costi di energia per la cura e trasformazione dei prodotti, ha avuto prezzi importanti per cavoli, pomodori, finocchi, cicorie e patate. Leggere diminuzioni per l'insalata gentile e le zucchine. Il settore della frutta, il paniere delle mele, pere, meloni e arance, ha segnato continuità dei prezzi con quelli precedenti. Pesche e albicocche hanno avuto quotazioni sostenute, solo i kiwi in leggero calo. Nel ramo ittico l'annata è stata limitata per alcuni prodotti come branzini, orate, passere, mazzancolle e anguille. Però i consumi domestici sono stati discreti e hanno compensato nel l'annata ai pescatori, che però hanno avuto una leggera flessione dei prezzi. Valutando le statistiche del settore avicunicolo, il quadro è positivo ed è l'unico comparto zootecnico la cui domanda resta vivace e trova interesse. contenuto il mercato dei polli, tacchini e anatre, in quota i conigli e le faraone, con quotazioni debolmente in salita, mentre le operazioni commerciali delle uova rilevano una misurata domanda e anche del prezzo. Il comparto del prosciutto di San Daniele ha ottenuto in campo nazionale e nell'export un trend positivo, sia per quello intero con osso che il dissossato, con un aumento di valore, ricorda il direttore del consorzio, per l'incremento della materia prima e sensibili costi energetici. Per quanto riguarda la sezione dei foraggi, l'anno scorso l'offerta superava la richiesta. Questo ha determinato una sostanziale riduzione dei prezzi per abbondanza di prodotti, contenuto invece il calo della paglia di cereali pressata. Nel comparto della legna d'ardere nel 2023 si sono registrate buone richieste e il mercato attuale, rispetto al 2022, ha consolidato segnali di ripresa delle quotazioni. Infine, analizzando l'andamento dei prezzi della filiera agroalimentare del 2023, questi hanno dimostrato un trend crescente diversificato. Buona parte del profitto però è fortemente influenzato dall'aumento dei costi di produzione e dall'incertezza sull'evoluzione soprattutto della situazione degli affari correnti. E con il previsore dell'ARPA, Gabriele Fasano, diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante. Ben ritrovati e buon inizio del nuovo anno. Negli ultimi giorni il tempo è stato caratterizzato da nubi basse in pianura e da tempo migliore in montagna, con temperature al di sopra delle medie del periodo. Da venerdì sera l'arrivo di una perturbazione atlantica ha cambiato la situazione, portando l'afflusso di correnti molto umide meridionali a tutte le quote. Nella giornata di sabato le piogge sono state intense in pianura, e in montagna la neve è caduta fino a circa 800-1000 metri sulle Alpi, fino a Fondovalle nel Tarvisiano, a quote più alte sulle Prealpi. Nella prima parte della giornata di domenica sono provviste ancora delle precipitazioni residue, con quota neve a circa 600-900 metri sulle Alpi, 1200-1500 sulle Prealpi, ma con possibili nevicate a quote più basse nelle vallate più interne. Poi le precipitazioni cesseranno e il cielo rimarrà coperto. Soffierà vento moderato da nord o nord-est in pianura, bora sostenuta o forte sul Carso e a Trieste. Lunedì continuerà a soffiare la bora, a Trieste, anche sostenuta o forte, vento più moderato in pianura, e il cielo sarà in prevalenza nuvoloso. È prevista bora ancora martedì e mercoledì, sostenuta o forte a Trieste, vento più moderato da nord-est in pianura. E ritornerà a farsi vedere il sole, con cielo poco nuvoloso o variabile martedì e anche sereno mercoledì. Da lunedì, e in particolare martedì e mercoledì, le temperature si faranno più fredde ovunque, ma saranno in linea con la norma di questo periodo. In pianura sono previste minime ben sotto lo zero, fino a meno 4, meno 5 gradi, e massime ben sotto i 10 gradi di giorno. Questa situazione perdurerà probabilmente fino verso la fine della prossima settimana, con condizioni più fredde e secche, stante l'assenza, in prospettiva, di altre precipitazioni significative. Invitiamo a seguire gli aggiornamenti successivi delle previsioni sul nostro sito e sulla testata RAI regionale. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Dio guardi di un buon gennaio, par podei emplar granar, ovvero Dio assicuri un buon gennaio con freddo moderato per poter riempire il granaio. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.